Charlie. Piacere, mi chiamo donna, convivo col difetto e con la vergogna. Se giro con i tacchi e la gonna corta, se sono troppo magra, troppo rotonda. Mi hanno chiamato secca e balena, gridato in faccia e sussurrato alla schiena. Mi hanno dato della suola, della troia, della scema. Senza trucco, senza smalto e crema. Io mi piaccio così, sì. E se mi va di farlo faccio così, sì. In fondo le parole sono parole, e un giorno spariranno senza rumore. Con i capelli fuori posto, senza vestiti belli addosso, anche al buio c'è una luce che ti illumina, perché tu sei bella così, perché tu sei bella così. C'è sempre qualcuno che ti aspetta, e dai suoi occhi sei perfetta, ed un giorno capirai quanto eri stupida. Sei bella così, perché tu sei bella così. Piacere, mi chiamo Shadia, sono sempre stata una tipa strana. Sono cresciuta sola in mezzo alla strada, senza fare la ladra né la puttana. Ho fatto una corazza, un'armatura che mi protegge dalla gente e dalla paura. Io non avevo il seno grosso né la statura, il corridoio della scuola era una tortura. Mi hanno chiamato imbranco, ma da soli poi piango, no. E mi devono soldi e rispetto. Mi guardo gonfiando il petto allo specchio. Con i capelli fuori posto, senza vestiti belli addosso, anche al buio c'è una luce che ti illumina, perché tu sei bella così, perché tu sei bella così. C'è sempre qualcuno che ti aspetta, sui occhi sei perfetta, ed un giorno capirai quanto eri stupida, perché sei bella così, perché tu sei bella così. Devi soltanto sembrare te stessa, né una regina né una principessa, solo chi non ti ama ti vuole diversa. Perché tu sei bella così, bella così. Sarà così per sempre dalla prima volta. Ti pagheranno caro tanto chi disprezza compra. Se a loro non vai bene in fondo non è tua la colpa, perché tu sei bella così, yala. Con i capelli fuori posto, senza vestiti belli addosso,